Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte e ben sintonizzate sui liberi microfoni di Radio Onda Rossa. Quella che sta per iniziare sarà la nostra 318esima trasmissione. Chi vi sta parlando è Caterina e con me c'è Stefania, momentaneamente senza microfono, saluta da qui. Ciao a tutte. Ok, perfetto. Ma non saremo sole per molto, perché questa sera abbiamo in programma due telefonate importanti a due donne altrettanto importanti. Si tratta di Nancy, che sarà la portavoce del gruppo di donne del Chesbilè, e Pina, che invece ci parlerà della settimana in masseria, storica settimana di vacanze dove confluiscono molte donne, soprattutto molte donne lesbiche. Ma non voglio rubare altro tempo in chiacchiere e quindi mandiamo subito un brano musicale, e quindi ascoltiamo Ochi Curiel con il brano Mujer es Tiempo. Quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado, miraste horizontes perdidos. Mujer, te has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado, por ti la esperanza ha brotado, por ti vuelve y nace la vida. Se ho fatto tutte le cose per bene, dovremmo avere collegata al telefono Nancy. Ci sei? Io ci sono. Vai, sto diventando un mostro, sì. Forte e chiaro. Mi avete presa con il sorcio in bocca, come si dice a Roma. Esatto, esatto. Proprio col sorcio in bocca, sapendo che stavi andando a cena fuori, abbiamo avuto un modo anche di... il caso di dire, Caterina, con la sorcia in bocca. Con la sorcia in bocca. Mi sembra giusto, noi femmine fino alla fine. Allora Nancy, intanto voi, benvenuta e grazie di aver accettato di parlare con noi in questa che sarà la nostra ultima trasmissione prima delle vacanze, quindi chiudiamo proprio in bellezza e quindi ci fa molto piacere averti di nuovo ai nostri microfoni, anche perché ricordiamo a chi ci ascolta, sei già venuta insieme a Sara ad ottobre, precisamente il 7 ottobre del 2014, era quella la data che coincideva con la riapertura delle attività del Kesbilè e dopo la pausa estiva. E ora che siamo invece proprio alle porte della nuova chiusura del Kesbilè, ci sembrava bello offrirci l'opportunità reciproca di rendere noto cosa è accaduto in questi mesi. Magari se tu potessi raccontarci quello che è successo nelle serate del Kesbilè. Sarebbe un sì, innanzitutto vabbè, grazie per avermi invitata, mi trovo sempre a parlare piacevolmente. Naturalmente però mi preme anche ricordare che anche le compagne del CLR insomma sono parte fondamentale del progetto Kesbilè, questo è chiaro, no, che deve essere detto. Grazie. Sì, siamo, come hai detto tu, è la quinta stagione, è finita il quinto anno di Kesbilè, che è nato appunto, come ho detto anche l'altra volta, ho detto anche all'ultima serata il 12 giugno, è nato sulla scia e sull'entusiasmo delle cinque giornate lesbiche. Ci siamo riunite un po' di donne, tu lo sai insomma, visto che ne fai parte. Mi sembra che c'ero. Meno male che c'eri tu e anche le altre compagne belle. Eravamo un grosso gruppo all'inizio e poi naturalmente, come accade spesso nei gruppi, in qualsiasi gruppo, certo, insomma, ci siamo diciamo sfoltite un pochino. E adesso appunto siamo arrivati ad essere 12 nel nostro gruppo e mandiamo avanti quella che è per noi una cosa bella, una cosa che abbiamo voluto fortemente, una cosa che abbiamo tenuto fortemente nonostante ci sono stati insomma magari anni in cui non abbiamo avuto diciamo il riscontro che volevamo, perché insomma abbiamo iniziato con essere aperte 3 volte al mese, poi 2 volte, e adesso siamo 1 volta al mese. Certo, però certo, manteniamo duro, perché comunque vuoi o non vuoi una risposta c'è, e la serata del 12 giugno magari, se vuoi, ne parliamo più tardi. Sì, chiediamo in bellezza. È stata una prova. Sì. E io proprio perché dimmi. Allora, siccome il Kesbilè apre il terzo venerdì di ogni mese, no? Mi faceva piacere magari se potessi dare un accenno più o meno a grandi linee su che cosa è stato fatto, cioè quali collaborazioni artistiche sono state organizzate, per esempio. Allora, citane qualcuno. Quest'anno... Sì, noi quest'anno come sempre noi cerchiamo di offrire sempre qualcosa alle donne che frequentano appunto l'ex bar del centro femminista separatista, e questo mi permetto ancora una volta di dire che per noi è importante che sia quel luogo. Come sapete tutte ormai insomma è un'entrata solo donne, per noi questo è fondamentale, è un luogo che è stato importantissimo per molte donne e noi per questo abbiamo voluto essere lì e vogliamo essere lì. Quest'anno abbiamo avuto come sempre varie collaborazioni, di solito offriamo sempre qualcosa a chi viene a trovarci, quindi che sia teatro, che sia musica, che siano film. Mi piace ricordare appunto che per esempio, se vado indietro nel tempo, c'è stata con noi appunto Cristina Zanetti, che ha presentato il suo libro Odissea, e in concomitanza poi la stessa serata abbiamo avuto Circa Capone, che ha presentato il suo corto Stella di Mare, e c'era anche Carlina Benvenuti, che è una carissima amica. Ormai un'amica fidata. Infatti, ricordo la compagna Rosa Sanchez, che è molto bella, conosciuta anche lì a Radio Onda Rossa, perché è stata una persona deliziosa e bravissima, con un mini concerto appunto che ha fatto da noi. E ricordo ancora a gennaio una collaborazione che abbiamo avuto con il ristorante l'uno e l'altro, il ristorante della Casa Internazionale delle Donne. Abbiamo fatto una serata molto bella in cui c'era anche una cena, una periscena, e c'era Diana Teiera con Giovanna Famulari, hanno fatto un omaggio a Gabriella Ferri. Ed è stata una serata molto piena, molto molto ricca quella. Ottimo. Poi abbiamo avuto la proiezione del film con Cashion, abbiamo avuto il teatro, abbiamo avuto una serata di teatro con Elisabetta Russo che ha presentato Scusa posso toccarti e abbiamo finito a maggio con una ragazza che già avevamo avuto, se non sbaglio nel 2013, a noi piace molto, che è Francesca Legge. Sì, sì. Che ha fatto appunto le sue cover con chitarra, certo. E poi abbiamo la musica con la nostra DJ, che è la Steph, insomma, che ha fatto grande due serate. Grande la Steph. Questo insomma quello che abbiamo offerto in questo quinto anno di Gesbilè. Certo. Ci vuoi ricordare com'è la struttura della programmazione, cioè come vengono individuate e scelte le artiste che poi si esibiscono? Ma guarda, essenzialmente ci guardiamo un po' intorno, quindi vediamo un po' insomma nel panorama, ecco, musicale soprattutto, vediamo insomma, naturalmente non è inutile, perché lo dico sempre, da noi comunque solo donne vengono a dare la loro arte, quindi musiciste che sono attrici, insomma donna, e quindi ci guardiamo un po' intorno, oppure se conosciamo, oppure se vediamo qualcosa che ci incuriosisce, quindi è un lavoro diciamo che facciamo di gruppo, no? Magari qualcuno ha sentito, ha visto, no? Oppure ci è piaciuta, questo certo. Solitamente ci muoviamo così, insomma, sulla scia di qualcosa che abbiamo, di una ricerca che facciamo in giro, insomma, nel panorama romano, ecco, di donne musiciste o attrici, oppure anche proposte che possono venire da fuori, se vediamo insomma che una cosa ci possa interessare e può interessare il pubblico, come è stato anche negli anni scorsi, persone che sono venute da Torino, da Milano, ricordo le Badole per esempio, ricordo per esempio Michela Pagarini, insomma persone che anche da fuori, perché ecco, mi ci giustriamo guardando un po' in giro, sì, mi sembra, a Roma e anche fuori Roma. Mi sembra che con le Badole ci sia anche stata una collaborazione assolutamente economica, sì. Perché abbiamo creduto nel progetto, no? Sì, sì, fra l'altro sì, è stato un progetto bellissimo quello delle ragazze delle Badole, loro sono simpaticissime e ci hanno appunto anche ringraziato nei loro corti, insomma, mettendo il nostro logo. Sì, è stata una delle cose più carine che abbiamo fatto, senza sminuire le altre. No, no, assolutamente, assolutamente. Sono belle tutte le collaborazioni che si riescono ad effettuare. Senti, soltanto una cosa, ora ci hai spiegato come praticamente vengono individuate le artiste. Ma per esempio le donne che vogliono essere informate su ciò che accade al Gesbilè, che sì. Modo allora, hanno per farlo? Essenzialmente lo so che io non ci sono su Facebook, neanch'io. Ma se ti può consolare, come gruppo c'è, quindi il gruppo, se chi volesse, insomma, infatti abbiamo molti contatti, però chi volesse contattare o sapere, basta che va su Facebook Gesbilè Donne e appare tutto insomma quello che succede all'interno del nostro gruppo, le cose che programmiamo. Anche spesso nel sito della Casa Internazionale delle Donne possono trovare le varie serate. Ricordo che siamo ogni terzo venerdì del mese. Esatto. Noi abbiamo una mailing list che è nostra, e qui forse è meglio che lo dici tu l'indirizzo, visto che te ne occupi tu, mia cara. Allora, se in questo momento presa la sprovvista, non me lo ricordo. Infogesbilè.it credo che sia, no? Sì, non lo so. Comunque, se andate sulla pagina Facebook, che siete assolutamente sicuramente quella pratiche, è la cosa migliore da fare. Esatto, sì. Esatto. Poi magari la prima volta che venite all'iniziativa o quando tornate alle iniziative che Gesbilè, casomai andate alla cassa e chiedete di lasciare il vostro indirizzo mail. La mia email lo inseriamo nel nostro indirizzo personale. Assolutamente sì. Certo. Mi preme dire una cosa, Caterina, sì. Se me lo permette, sì, una cosa a cui tengo, certo. Molto. Io come dico sempre, questo è un progetto che abbiamo voluto e che continuiamo a volere, però abbiamo dei costi, quindi noi quello che chiediamo alle donne, alle compagne che ci vengono a trovare, sono essenzialmente appunto qualcosa che ci può sostenere, perché abbiamo comunque perché ribadisco, noi paghiamo le artiste perché il lavoro va pagato, esatto. Questo è sacrosanto, certo. Quindi noi chiediamo sempre una sottoscrizione minima a chi ci viene a trovare, per appunto poterci dare la possibilità di reinvestire tutto in questo progetto che torno a dire, ha già compiuto 5 anni e ci sembra che sia un buon traguardo. E nessuna di noi ci è andata in vacanza con quello che è stato guadagnato, è stato tutto reinvestito nel progetto. Assolutamente, perché viene tutto ridato lì, esatto. Perché le spese della ci sono le spese della stanza, ci sono le spese del bar, le spese delle artiste. Certo, quindi certo. Questo ci tengo a dirlo, perché io sono per l'aiutarsi, no, fra donne, credo, certo, che sia fondamentale, e almeno nella mia politica, certo, la cosiddetta sorellanza ci credo ancora, assolutamente. Quindi, insomma, sì. Trovi terreno fertile. Appunto, vedi, lo so con chi parlo, quindi so, insomma, quindi per me è importante dire questo, ci aiutate quando venite, così per tenerlo ancora un pochino in piedi questo bellissimo, certo, progetto. Senti, che insomma, adesso se ci teniamo, vuoi parlare di questo bellissimo ultimo appuntamento che si è svolto il 12 giugno. Sì, allora noi il 12 giugno come consuetudine chiediamo e facciamo l'ultima serata del Kesbile in quel meraviglioso posto che è il giardino della Casa Internazionale delle Donne, sì, che io ritengo sia veramente un posto splendido che bisognerebbe veramente vivere un po' di più noi donne. Mm-hmm. Quindi noi ogni volta l'ultima serata la facciamo nel giardino e il 12 giugno appunto l'abbiamo fatta e devo dire che è stata una bellissima serata, mi credo, confermo, di parlare a nome proprio di tutto, confermo, il gruppo, confermiamo, infatti, sì, abbiamo avuto come ospite Camilla De Concini che ha presentato il suo bellissimo romanzo e lo consiglio, sì, a chi si sta ascoltando, che ti sia lieve la terra, fra l'altro faccio una piccola pubblicità, Camilla sarà il 4 luglio a Tuba, per chi volesse insomma acquistare il libro e riascoltarla è una buona occasione per farlo. Mm-hmm. E poi abbiamo avuto questo bellissimo gruppo di donne napoletane, Mujeres Creando, che, bravissime, hanno insomma tenuto viva la serata, sì, e alla fine poi abbiamo avuto la nostra DJ La Stessa che ci ha fatto ballare, devo dire, su una splendida pedana, finalmente non più sul brezzolino, meno male. È stata una bella serata, è stata, vorrei solo dire questo, insomma, al di là del fatto economico, no, che può esserci, non può esserci, a noi interessa creare delle situazioni in cui le donne stanno bene. Certo. E quella sera devo dire che c'era una bella energia, si sentiva, e noi ne siamo veramente contente, insomma, siamo rimaste lì oltre le 2 di notte e abbiamo visto che c'è stato un buon riscontro da parte delle donne e questo ci ha dato veramente molto entusiasmo e carica per ricontinuare, per ricominciare dopo le vacanze. Caterina, già sto pensando, per esempio, alla festa, io già sto pensando a come riaprire. Proprio sulla scia di questo entusiasmo che abbiamo, insomma, dopo la serata del 12, che è andata molto bene, devo dire, sì. Ottimo, ottimo. Allora, no, c'è un'ultima domanda. Un'ultima domanda. Così proprio in finale ti vogliamo dire che ci ha molto colpito, sì, come tu hai presentato l'ultima serata, come è stata presentata. E le parole che hai usato per parlare della serata e del luogo, ce le puoi ripetere? Te le ricordi? Tuppa, ti riferisci al centro femminista separatista? Sì, sì, al fatto che ha colpito la parola non è un posto fighetto, insomma. Allora, sì, io questa cosa la devo dire, come l'ho detta l'altra volta, come all'ultima serata. Lo so che siamo un po' vintage, ecco. No, è vero, non siamo, io uso l'espressione, lo dico sempre, non siamo trendy, mandy, friendly, siamo diciamo un po', ecco, abbiamo questa aria degli anni 70 che abbiamo in quella stanza. Però ecco, quello che trovate sicuramente, e questo non è presunzione, siamo veramente molto accoglienti, siamo alla mano, siamo simpatiche, e quel posto per noi, o perlomeno ha un valore enorme, un valore politico essenzialmente, sì. È stato un posto che ha visto tante cose, certo, di qualsiasi tipo, certo, e noi per questo vogliamo farlo lì, per noi rimane appunto un luogo magico, un punto in qualche saldo. Modo, anche, un punto saldo da dove partire. Infatti, assolutamente, anche se è così, un pochino di altri tempi, un pochino vintage. Non fa niente, la vita è bella perché è varia, ognuno ha i suoi valori. Poi del resto i posti fighetti ci sono, esatto, e uno si può andare. Quindi esatto, se ogni tanto venite a farci visita al terzo venerdì, ogni terzo venerdì del mese, che vi costa? Fatto. Troverete sicuramente me, troverete Rosina, troverete Caterina, Stefania, Lucilla, guarda Stefania, ciao, Sara, poi le dico tutte, Coralla, Francesca, troverete tutte quante. Tutto lì, abbraccio verde. Quindi questo, insomma, sai, poi i luoghi li fanno le persone. Certo, su questo assolutamente io, sono convinta di questo, appunto, e lo appoggio fino alla fine. Lo so, infatti, ci troviamo molto. Esatto. Nancy, purtroppo tu fai radio come me, quindi sai perfettamente che il tempo i è tiranno. Mm-hmm. Noi abbiamo una compagna di Bari che sta aspettando la nostra chiamata, quindi adesso purtroppo... Che è stata anche da noi, anche da noi il 12. Esatto, ci è venuta a trovare perché le relazioni sono importanti e la sua presenza a Roma insieme ad altre compagne di Bari è stata un segno di queste relazioni che riusciamo ad imbastire. Per cui con la morte nel cuore, Nancy, ti mando a cena, a te che puoi. Tanto ci vediamo la prossima settimana, esatto. Io e te, tutto il gruppo. Esatto, quindi nell'augurarti buona cena ti ringraziamo di essere stata con noi. È il tempo di mandare una canzone che chiaramente ti dedichiamo. Grazie. E si intitola Addio Tristezza della Macanita ed è una flamenca, va bene? Meraviglioso, grazie Caterina, ciao, ciao Stefania, grazie ciao, a tutte, ciao. Más fuerte que la tristeza son la guitarra y el sol, la calle en el corazón, la curva de la belleza. Más fuerte que la tristeza. Yeah. Allora, noi torniamo un pochettino più serie, per modo di dire, e dovremmo avere quantomeno in collegamento Pina da Bari. Ci sei? Sì, ci sono. Ottimo, perfetto. Ok, allora nella presentazione, intanto ci scusiamo per il ritardo della telefonata, ma come se hai sentito la diretta, prima di noi c'è stata un concerto proprio dal vivo qui dai microfoni della radio, che ha fatto slittare di un quarto d'ora tutto quanto, per cui scusa il ritardo. Comunque Pina è una donna di Bari che gestisce una masseria per le donne lesbiche molto importante, e quindi bando alle chiacchiere, io ti faccio subito una prima domanda. Ci vuoi spiegare un attimino a grandi linee che cos'è il progetto Masseria e da quanto tempo sta in piedi? Sì. Allora, il progetto Masseria, così come lo vogliamo chiamare, si perde oramai negli albori del tempo, perché nasce nel 1994 e nasce all'interno di un'associazione lesbica separatista barese che si chiama Desiderande, un'associazione politica che ha dato vita nel corso degli anni, dal 94 in poi, alla Vacanza Lesbica in Puglia. E in questa masseria, che poi, diciamo, dopo 10 anni, nel 2004, un gruppo di noi ha preso in gestione in maniera totale, e all'interno della quale, oltre ad organizzare la settimana di vacanza lesbica estiva, lo gestiamo come attività di bed and breakfast. Ottimo. Questo, diciamo, in grandi linee la nascita del progetto. La vacanza nasceva con lo scopo di essere un momento di incontro, ma anche ludico, estivo, giocoso, rivolto esclusivamente alle donne e alle donne lesbiche. Mm-hmm. All'interno della settimana abbiamo proposto sin dall'inizio non solo attività ludiche, ma anche attività culturali e anche politiche legate all'associazione. Nel corso degli anni l'associazione, negli ultimi anni, in pausa, insomma, non è più attiva da qualche anno, ma il gruppo di donne che ha preso in gestione la masseria ha voluto continuare, insomma, questa bella eredità, l'ha portata avanti fino all'organizzazione, diciamo, anche per quest'anno della vacanza per donne in Puglia. Sì, io non so quante donne. Qualche altra informazione? Sì, no, volevo semplicemente fare una. Sì, mi senti? Mi senti? Pronto? Pina, io ti sento perfettamente, spero che tu riesca a sentire anche me. Avevo soltanto abbassato il mio microfono a te e non me ne sono accorta. No, volevo semplicemente dire che io ho avuto la fortuna di farla questa settimana in masseria, e la consiglio vivamente, perché si crea un'atmosfera veramente unica. C'è una condivisione su tutto, la gioia dello stare insieme, e anche se vai da sola, senza conoscere nessuna, diventi amica di tutte, perché voi avete la capacità comunque di accogliere e coccolare chiunque si presenti lì. Per cui intanto il mio grazie va proprio molta gioia nel ricordare questa esperienza, quindi grazie di questo. Oh, grazie a te per essere venuta, soprattutto per questa fantastica promozione. No, ma scherzi, ma scherzi, no, io la consiglio, cioè, almeno una volta tutte le donne lesbiche dovrebbero fare una vacanza in masseria, almeno una volta, poi sono sicura che faranno anche la seconda, la terza, la quarta, però almeno la prima volta dovete provare, perché va fatto assolutamente. Sì, sicuramente è un'esperienza un'esperienza da fare. Non lo dico perché la organizzo, ma lo dico perché continuo ad organizzarla dopo 20, sono passati 20 anni ormai dal 94, per cui sono 20 anni, la motivazione principale è proprio questa energia che viene fuori dallo stare insieme in quel posto che è un posto magico, magico e che ci dà magico. ancora oggi, insomma, la voglia e il piacere soprattutto di ripetere nel tempo. E francamente non è una cosa semplicissima, perché sai, vent'anni in meno avevamo tutta l'ardore, ecco, esatto. Per farla. Dopo vent'anni un po' si diventa un po' più, a volte, non sempre ovviamente, insomma, un po' più accasate, più attente a tante cose, però questo desiderio c'è ancora è rimasto, per cui ed è merito soprattutto non solo nostro, è merito del posto che è magico, ma è merito anche di tutte le donne sono venute e ritornate, vero che si ritorna. Si ritorna, assolutamente. E c'è stato veramente uno scambio bellissimo con molte di loro. Si sono creati dei bellissimi rapporti d'amicizia, quindi solo di amicizia. Sono nate anche gli amori, quindi Senti, ci puoi descrivere come il progetto si è modificato nel corso di questi anni? Sì, diciamo, il progetto come ho accennato in precedenza è stato un progetto politico nato e sviluppato da un'associazione lesbica nel corso degli anni. E ha portato anche contenuti politici di questa associazione. Il progetto poi nel corso degli anni si è un po' adattato anche a quello che succede nel corso del tempo, ovvero sia le associazioni possono svilupparsi, crescono, a un certo punto però purtroppo a volte anche esauriscono la propria storia, perché la storia è legata anche alle donne che la portano avanti, per cui l'associazione a un certo punto non è che c'è stato di esistere, è in pausa da diversi anni. E il progetto però è stato preso in eredità da una parte dell'associazione che nel frattempo aveva preso in gestione quella famosa masseria dove l'associazione faceva le vacanze, sì. E ha deciso di dedicare almeno una settimana all'anno alla continuità per questo progetto, proprio perché è stato per noi importante, ed è importante per noi mantenere un legame, non solo un legame col passato, ma soprattutto mantenere in vita un progetto che a nostro avviso è estremamente bello. Sì, piacevole. Lo si fa per questo motivo, perché è stato bello ed è bello. Ti posso dire anche un altro aspetto fondamentale. Le ragioni che tu hai elencato sono dal vostro punto di vista, cioè dal punto di vista di voi che lo organizzate. Però sarebbe proprio un colpo basso non farla più per chi come me l'ha frequentato e lo conosce, cioè sarebbe proprio perdere un'opportunità importante di condivisione con altre donne. È un punto fermo sapere che c'è la settimana lesbica a Bari, capito? Quindi voglio dire che poi non è proprio Bari, anzi, se vuoi dire precisamente dove sta, in modo che uno si rende anche conto. Però voglio dire, al di là dell'importanza del progetto, di cui comprendo e condivido le motivazioni, io ti parlo proprio come fruitrice, è una situazione talmente tanto bella, gradevole, giocosa, che ti ha la possibilità di rigenerarti, e quindi questo è importante. Non farla più sarebbe veramente una grave perdita, quindi io non smetterò mai di ringraziarvi, anche perché io forse, passati 20 anni, ho qualche anno più di voi, magari ho qualche difficoltà maggiore, però nel cuore vi porto sempre, cioè sapere che c'è a me fa estremamente piacere, perché quello che ho vissuto io in quel contesto spero che possano viverlo anche altre, e quindi c'è comunque una sorta di continuità, capito? E questo per me è importante. Grazie, perché veramente per amor del vero, diciamo, c'è stato un momento in cui questo progetto è entrato fortemente in crisi. Mm. È entrato fortemente in crisi nel momento in cui l'associazione è entrata in pausa, per cui noi abbiamo siamo state 2 anni senza organizzarla questa vacanza. Però poi a un certo punto ci siamo dette proprio quello che hai detto tu, non potevamo è una cosa che non poteva perdersi così. Esatto. Per cui questo è il terzo anno che abbiamo ripreso ad organizzarla, non più come associazione ma come, diciamo, struttura ricettiva, ma come singole. Noi siamo tutte facevamo parte dell'associazione Desiderande. Mm-hmm. E abbiamo deciso che era un patrimonio nostro e delle donne che non poteva essere, diciamo, perso così. E per certo. Cui ripeto, questo è il terzo anno e soprattutto quest'anno siamo state così, e veramente quando abbiamo ripreso a riorganizzare le settimane abbiamo avuto un riscontro così positivo da chi è venuto. Cioè, questo è il terzo anno che lo organizziamo consecutivamente, e una parte delle donne che verranno, che hanno già prenotato quest'anno, sono venute da noi sia l'anno scorso che l'anno precedente. Quindi si è creata veramente una situazione per noi motivante nel continuare a organizzare, tant'è che quest'anno ci siamo lanciate per la prima volta nei 20 anni, diciamo, della storia di questa vacanza. Abbiamo deciso di fare 2 settimane di vacanza. E vai! Una volta dovevamo sperimentarla questa pazzia, quindi quest'anno è l'anno delle 2 settimane consecutive, che per noi sono sicuramente piacevolissime, ma ti assicuro sono anche faticose, insomma, da gestire consecutivamente, insomma, tutta questa attività, dato che abbiamo pure 20 anni in più, insomma. Però come ti capisco Pina, tu non hai idea. Senti Pina, ti volevamo chiedere che significato ha nella realtà pugliese organizzare vacanze come questa. Beh, sicuramente per noi è stato ed è un punto di riferimento. Sono passate dalla masseria, dalla vacanza, sicuramente tante donne non pugliesi, ma sicuramente tante donne pugliesi. Cioè, la vacanza della masseria è un punto di riferimento, insomma. E quindi sì, rimane tal quale, a volte più frequentato, a volte meno frequentato, così come succede normalmente, insomma, quando è fisiologico, non ti preoccupare, fai qualcosa. Però se non la fai poi si sente la mancanza. Esatto. Per cui poi anche da noi, insomma, anche dalle nostre pugliesi, quando abbiamo incominciato a non organizzarla per il secondo, terzo anno consecutivo, adesso non ricordo più, hanno cominciato a sollecitarci. Certo, chiedevano conto del perché. L'ultimo anno, vabbè, il secondo, no, adesso no. Adesso no, però ora basta, rimboccatevi le maniche e andate. Senti Pina, un'altra cosa, se non ricordo male, voi avete anche organizzato un'altra pazzia, e io ve lo dico proprio col cuore in mano, un'altra pazzia, tipo quella di organizzarla per 2 settimane di seguito, quella che prevedeva una trasferta al nord. Sì. Esatto. Allora, ne ho fatte due. Due. Mi manca la seconda, chiedo venia. Sì. Sono poco aggiornata. Sì. Comunque volevo sapere se ce ne vuoi intanto parlare e dirci se si prevede un replay di questa esperienza all'estero, come dire. Sì, allora assolutamente sì, si prevede il replay. Okay. Noi l'abbiamo iniziato 2 anni fa, diciamo, sull'entusiasmo, insomma, del successo della vacanza in Puglia. Eravamo, diciamo, indecise se organizzare nuovamente in Puglia il Capodanno, perché è un'altra delle cose che abbiamo organizzato solo per donne, il Capodanno. Uh-huh. In Puglia, oppure provare a fare una cosa differente. Perché differente? Perché dal nostro punto di vista ci sembrava anche interessante essere noi a spostarci in una regione che non era la nostra, per fare un po', per esportare il prodotto, va, diciamo. Certo. Così, in termini commerciali. Diciamo simpaticamente commerciali, per cui e anche perché mentre come dire d'estate la Puglia è sempre una regione interessante, riguardo al Capodanno i periodi festivi sono sempre più ridotti, insomma avevamo voglia di aggregare più donne, mm-hmm. oltre che anche noi, insomma, spostarci in territori differenti. Quindi alla fine due anni fa abbiamo organizzato il Capodanno vicino Forlì e l'anno scorso in un agriturismo vicino Fano. È andata molto bene, sono venute parecchie donne sia nel primo caso che nel secondo, cioè sia nella prima organizzazione che nella seconda, un'organizzazione tutta pugliese, quindi abbiamo fatto proprio la trasferta delle terroni emigranti al nord per fare il Capodanno. Una curiosità, Pina, ma la cuoca è venuta con voi? Il primo anno, lo staff diciamo della cucina che è un'altra di quelle, cioè la cucina, per chi non è venuto negli ultimi anni in masseria o comunque per chi non è mai venuto in masseria, è stata una delle cose ampiamente decantate. Esatto. Solo che diciamo nel nostro caso degli ultimi anni le nostre cuoche hanno voluto anche loro concederci una vacanza, per cui sono venute con noi ospiti nell'agriturismo e quindi poi ci siamo appoggiate alle cuoche diciamo dell'agriturismo, dove il primo anno dove siamo andati in questo agriturismo vicino Forlì siamo andate lì perché era gestito dalla nostra storica cuoca Lorena, e quindi insomma c'è stata questa rimpatriata anche con lei perché lei aveva preso in gestione questo posto e quindi lei c'era. Mm-hmm. L'anno scorso invece c'era un altro tipo di gestione nell'altro agriturismo, però siamo stati assolutamente benissimo, un'accoglienza perfetta. Certo. Senti, direi. Prima di salutarci purtroppo, ci puoi dare qualche ragguaglio tecnico, ad esempio sul programma di quest'anno e come possono fare le donne che vogliono partecipare? Sì, allora la vacanza, le date della vacanza sono la vacanza parte l'8 agosto e termina il 23 agosto, mm-hmm. sabato 8 agosto, domenica 23 agosto, sono ben 15 giorni, mm-hmm. di vacanza con trattamento di mezza pensione, all'interno della quale poi noi abbiamo già un programma di attività di cui diciamo una delle cose principali che quest'anno abbiamo voluto importare in Puglia è stato l'attività dell'associazione Tango Femme con il laboratorio di tango queer tenuto da Mila Morandi, bravissima, da Roma, mm-hmm. e insomma è stato per noi, insomma era per noi un bel progetto da presentare anche in Puglia, quindi mm-hmm. ospiteremo lei insieme ad altre donne che fanno parte diciamo invece del nostro territorio, che all'interno dei famosissimi per chi c'è stato e poco famosi per chi ancora non c'è stato aperitivi in masseria, noi ospiteremo donne che hanno ho scritto delle cose, ho fatto delle cose diciamo creative che però appartengono alla nostra terra. Certo. Inoltre poi tutte le serate saranno un po' scandite dalla nostra simpatica animazione che tu hai avuto modo di provare, certo. oltre che dalla nostra bravissima DJ, e invece le mattinate noi vi porteremo a spasso per chi vorrà seguirci nei tour delle fantastiche spiagge pugliesi. Pugliesi, ottimo. Ma come si possono mettere in contatto con voi? Sì, chiunque di voi, insomma, chiunque è interessata ad avere anche soltanto delle informazioni sulla vacanza ci può contattare per mail ad info@masseriasant'Anna.it. Ok, va benissimo. Io mi auguro che voi riusciate a riempire queste due settimane e secondo me ce la farete perché veramente merita. Noi ti ringraziamo per aver... Posso dire come un'ultima no? cosa che stavo dimenticando? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Allora, sì, ecco, quello che ho dimenticato di dire sulla vacanza che, diciamo, volendo, ci siamo un po' evolute anche rispetto al clima degli ultimi tempi, per cui abbiamo pensato di fare una vacanza che fosse un po' la portata di tutte. Uh-huh. E quindi, oltre ad esserci posti nella nostra masseria ad un costo diciamo un po' più alto, c'è la possibilità anche di venire in tenda. Abbiamo organizzato uno spazio attrezzato in maniera tale da dare la possibilità a chi ad altre di poter passare anche qualche giorno in con tenda. Noi. Ottimo, sì. Ottimo. Bene, a questo punto noi ti dedichiamo l'ultima canzone che abbiamo in programma. È un po' datata perché, ripeto, io sono datata, quindi vado a cercare tutte le cose datate. È comunque dalla splendida voce di Giuni Russo e si intitola Un'estate al mare. Fantastico. E speriamo che per molte sia il mare della Puglia in masseria. È la canzone perfetta. Caldeggio vivamente, va bene? Ok, grazie, grazie Pina. Ciao. Pina. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come è vellutata e ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le Allora, noi solitamente evitiamo, cerchiamo quantomeno di evitare di parlare sopra la musica, ma questa volta è un'occasione particolarissima perché, a parte che ringraziamo sia Nancy che Pina di aver partecipato a questa trasmissione, ma è, ripeto, è una trasmissione molto importante perché segna la chiusura del ciclo delle nostre trasmissioni, quindi è l'ultima e poi riprenderemo penso a settembre-ottobre, vediamo un attimo, così qui ci dedicheremo un po' di tempo per noi. Noi ringraziamo chiunque ci abbia ascoltato, chiunque abbia gradito le nostre trasmissioni, che ricordo sono riascoltabili accedendo al nostro sito nella pagina La Radio, e lì troverete tutte le trasmissioni, quindi se volete andare a ricercare qualche informazione che durante le trasmissioni è stata data, potete sicuramente farlo sul nostro sito e anche dalla pagina Facebook ecco, vedi, lei che è giovane che si ricorda la pagina Facebook, io no, io sono più per il sito e già mi sembra un passo avanti, quindi salutiamo tutte quante, il CLR vi dà appuntamento dopo le vacanze e buon proseguimento di ascolto sui liberi microfoni di Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me. me here.